Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Ora volete dirmi chi siete? Domandò Dantès. Sono l'abate Faria, rispose. Prigioniero dal 1811, come sapete, in questo castello d'If, ma ero rinchiuso già da 3 anni nella fortezza di Fenestrelle. Poi fui trasferito dal Piemonte in Francia. Ma voi, perché siete in prigione? Io? Perché ho sognato nel 1807 il progetto che Napoleone ha voluto realizzare nel 1811. Perché, come Machiavelli, in mezzo a tutti quei principucoli che facevano dell'Italia un nido di piccoli regni tirannici e deboli, ho voluto un unico e grande impero, compatto e forte. Perché ho creduto di trovare il mio Cesare Borgia in uno scimunito coronato che ha finto di capirmi, per meglio tradirmi. E il vecchio abbassò la testa. Dantès non capiva come un uomo potesse rischiare la vita per simili interessi. «Siete malato?» chiese, iniziando a condividere l'opinione del suo carceriere, che era l'opinione generale del castello d'If. «Mi considerano pazzo, volete dire, vero?» «Non osavo», rispose Dantès sorridendo. «Sì, sì, sono io che passo per pazzo, sì», continuò Faria con un sorriso amaro. «Sono io che tutti dicono pazzo. Sono io che diverto da lungo tempo gli ospiti di questa prigione e che rallegrerei i bambini, se vi fossero bambini, nel soggiorno del dolore senza speranza». Dantès rimase un istante immobile e muto. «Così rinunciate alla fuga?» chiese. «Vedo che la fuga è impossibile. Sarebbe come ribellarsi a Dio tentando ciò che Dio non vuole si compia. E poi, in 12 anni circa di prigione, ho ripassato con la mente tutte le evasioni famose. Ho visto riuscire solo raramente le evasioni. Le evasioni fortunate, coronate da pieno successo, sono quelle meditate con giudizio e preparate lentamente. E vi sono poi quelle offerte dal caso, sono le migliori. Aspettiamo un'occasione. Credetemi, e se questa occasione si presenta, approfittiamone». «Voi avete potuto aspettare», disse Dantès sospirando. «Questo lungo lavoro vi teneva sempre occupato, e quando non avevate il lavoro per distrarvi, avevate le speranze per consolarvi. E poi», aggiunse Faria, «avevo un'altra occupazione». «Cosa facevate?» «Studiavo o scrivevo». «Allora vi davano carta, penna e inchiostro?» «No», disse l'abate, «ma li facevo». «Quando verrete a trovarmi», disse, «vi mostrerò un'intera opera, risultato dei pensieri, delle ricerche e delle riflessioni di tutta la mia vita. È un trattato sulla possibilità di una monarchia generale in Italia. Formerà un grosso volume in quarto». «E l'avete scritta voi?» «Su 2 camicie. Ho inventato un composto che rende la tela liscia e piana come la pergamena». «Siete un chimico?» «Ah, un po'. Ho conosciuto Lavoisier e ho avuto contatti con Cabanis». «Ma per una simile opera avreste dovuto fare delle ricerche storiche. Avevate dunque dei libri?» «A Roma avevo circa 5.000 volumi nella mia biblioteca. Nella mia cella, con un leggero sforzo di memoria, me li sono richiamati tutti alla mente. Ora potrei recitarvi alla lettera Tucidide, Senofonte, Plutarco, Tito Livio, Tacito, Strada, Dante, Montaigne, Shakespeare, Spinoza, Machiavelli, e cito solo i più importanti». «Ma conoscete parecchie lingue?» «Parlo 5 lingue vive: il tedesco, il francese, l'italiano, l'inglese e lo spagnolo». con l'aiuto del greco antico capisco il greco moderno. Solo lo parlo male, ma lo sto studiando adesso. Sempre più stupito, Edmond cominciava a trovare quasi soprannaturali le facoltà di quell'uomo straordinario. Volendo coglierlo in fallo su un punto qualunque, continuò. «Ma se non vi hanno dato delle penne», disse, «come avete fatto a scrivere questo trattato così voluminoso?» «Me ne sono fatto di eccellenti con le cartilagini delle teste di quei grossi merluzzi che qualche volta ci danno nei giorni di magro». «Ma l'inchiostro?» chiese Dantès. «Con che cosa facevate l'inchiostro?» «Faccio sciogliere la fuliggine nel vino che ci danno la domenica e ciò mi fornisce dell'inchiostro eccellente. Per le note particolari che hanno bisogno di risaltare mi pungo le dita e scrivo con il sangue». «E quando potrò vedere tutto questo?» domandò Dantès. «Quando vorrete», rispose Faria. «Oh, subito allora!» esclamò il giovane. «Seguitemi», disse l'abate. Appena entrato, il giovane esaminò la cella con grande attenzione. A prima vista non presentava niente di particolare. «Bene», disse l'abate, «è solo mezzogiorno e un quarto e abbiamo davanti ancora qualche ora». Dantès si guardò intorno, cercando su quale orologio l'abate avesse potuto leggere l'ora in modo così preciso. «Guardate! Guardate il raggio di luce che proviene dalla finestra», disse l'abate. «E guardate sul muro le linee che vi ho tracciato. Grazie a queste linee, che sono combinate con il doppio moto della Terra e l'ellisse che essa descrive intorno al Sole, io conosco l'ora più esattamente che se avessi un orologio, poiché un orologio si guasta, mentre il Sole e la Terra non si guastano mai». Dantès non aveva capito niente di questa spiegazione. Aveva sempre creduto, vedendo il sole levarsi dietro le montagne e tramontare nel Mediterraneo, che fosse il sole a muoversi, non la terra. Questo doppio moto del globo su cui abitava e di cui non si accorgeva gli sembrava quasi impossibile. In ciascuna delle parole del suo interlocutore vedeva misteri di scienza così mirabili da approfondire quanto le miniere d'oro e di diamanti che aveva visitato in un viaggio che aveva fatto ancora bambino a Guzerate e a Golconda. «Su», disse all'abate, «sono impaziente di vedere i vostri tesori». L'abate andò verso il caminetto e con lo scalpello che teneva sempre in mano spostò la pietra che un tempo formava il focolare e che nascondeva una cavità abbastanza profonda. In questa cavità erano raccolti tutti gli oggetti di cui egli aveva parlato a Dantes. «Cosa volete vedere innanzitutto?» domandò. «Mostratemi la vostra grande opera sulla monarchia in Italia!» Faria estrasse dal prezioso armadio 3 o 4 rotoli di tela avvolti come fogli di papiro. Erano strisce larghe circa 4 pollici e lunghe 18. Queste strisce, numerate, erano coperte da una scrittura che Dantes poté leggere perché era scritta nella lingua materna dell'abate, cioè in italiano, che Dantes, in quanto provenzale, comprendeva perfettamente. «Ecco», disse, «è tutto qui. Sono circa 8 giorni che ho scritto la parola fine, in fondo alla 68ª striscia. Ci sono volute 2 delle mie camicie e tutti i fazzoletti che avevo. Se mai tornassi libero e trovassi in Italia uno stampatore che avesse il coraggio di pubblicarla, la mia fama sarebbe assicurata.» «Sì», rispose Dantes, «senza dubbio. Ora mostratemi, ve ne prego, le penne con cui avete scritto quest'opera.» «Eccole», disse Faria, e mostrò al giovane un bastoncino lungo 6 pollici, grosso quanto un manico di pennello. Attorno a un'estremità era legata con un filo una di quelle cartilagini ancora macchiata d'inchiostro di cui l'abate aveva parlato a Dantes, allungata in punta e scanalata come una penna normale. Dantes la esaminò, cercando con lo sguardo lo strumento con il quale era stata tagliata in modo così preciso. «Ah, sì», disse Faria, «il temperino, vero? Sì, è il mio capolavoro. L'ho fatto come questo coltello qui, con un vecchio candeliere di ferro.» Dantes osservò quei diversi oggetti con la stessa attenzione con cui a volte nelle botteghe di curiosità a Marsiglia aveva esaminato oggetti simili, fabbricati da selvaggi e portati dai mari del sud dai capitani di lungo corso. «Mi meraviglio di una cosa», disse, «che i giorni vi siano bastati per compiere tutti questi lavori.» «Avevo le notti», rispose Faria. «Le notti? Siete dunque della natura dei gatti e ci vedete bene anche di notte?» «No, no, ma Dio ha donato all'uomo l'intelligenza per venire in aiuto alla povertà dei suoi sensi. Mi sono procurato della luce.» «E come?» «Dalla carne che mi portano separo il grasso, lo faccio sciogliere e ne ricavo una specie di olio compatto. Ecco, guardate, questo è il mio lume.» E l'abate mostrò a Dantes una specie di lampione uguale a quelli che si adoperano per le illuminazioni delle strade. «Ma il fuoco, gli zolfanelli.» «Ho finto una malattia della pelle e ho chiesto dello zolfo che mi è stato accordato.» Dantes posò sul tavolo gli oggetti che teneva in mano e abbassò la testa, schiacciato dalla perseveranza e dalla forza di quello spirito. Un'idea si era affacciata nella mente di Dantes. Quell'uomo, così intelligente, così ingegnoso, così profondo, forse avrebbe potuto chiarire la causa della sua sventura, di cui lui stesso non aveva potuto capire niente. «A cosa state pensando?» domandò l'abate sorridendo. «La mia vita comprende un'immensa disgrazia», disse Dantes. «Una disgrazia che non ho meritato. E vorrei, per non maledire più Dio come ho fatto qualche volta, potermela prendere con gli uomini per la mia infelicità.» «Allora vi ritenete innocente del fatto che vi viene imputato?» «Completamente innocente.» «Vediamo», disse l'abate, chiudendo il nascondiglio e spingendo il letto al suo posto. «Raccontatemi la vostra storia.» Terminato il racconto, l'abate rifletté profondamente. Esiste, disse dopo un momento, un assioma giuridico di grande saggezza. Se volete scoprire il colpevole, cercate prima colui al quale il crimine commesso può essere utile. La vostra sparizione a chi poteva essere utile? A nessuno, mio Dio. Ero così poca cosa. Non rispondete così, perché la risposta manca sia di logica sia di filosofia. Tutto è relativo, mio caro amico, dal re che è d'ostacolo al suo successore fino all'ultimo impiegato che intralcia l'apprendista. Se il re muore, il suo successore eredita una corona. Se l'impiegato muore, l'apprendista eredita uno stipendio di 200 franchi. Questi 200 franchi di stipendio sono la sua lista civile. Gli sono tanto necessari per vivere quanto 12 milioni per un re. Ritorniamo dunque al vostro mondo e a voi. Stavate per essere nominato capitano del Faraon? Sì. Stavate per sposare una bella ragazza? Sì. Qualcuno aveva interesse che non diventaste capitano del Faraon? Qualcuno aveva interesse che non sposaste Mercedes? Rispondete innanzitutto alla prima domanda. L'ordine è la chiave di tutti i problemi. Qualcuno aveva interesse che non diventaste capitano del Faraon? No, ero molto amato a bordo. Solo un uomo aveva dei motivi per non volermi. Qualche tempo prima avevo avuto un litigio con lui e gli avevo proposto un duello, che aveva rifiutato. Ci siamo. Quest'uomo come si chiamava? Danglars. Che incarico aveva a bordo? Contabile. Se voi foste divenuto capitano, l'avreste mantenuto al suo posto? No, se la cosa fosse dipesa da me, perché mi era parso di notare qualche scorrettezza nei suoi conti. Bene, bene. Ora, chi ha assistito al vostro ultimo colloquio con il capitano Leclerc? Nessuno. Eravamo soli. Ma qualcuno poteva sentire la vostra conversazione? Ah, sì, sì, perché la porta era aperta. Anzi, aspettate. Sì, sì, Danglars è passato proprio nel momento in cui il capitano Leclerc mi consegnava il plico destinato al gran maresciallo. Bene, fece l'abate. Siamo sulla via giusta. Avete portato qualcuno con voi quando siete sbarcato all'isola d'Elba? Nessuno. Vi fu data una lettera? Sì, dal gran maresciallo. Quindi, quando siete risalito a bordo del Faraon, tutti hanno potuto vedere che avevate una lettera. Sì. Anche Danglars? Anche Danglars. Ora, ascoltate bene. Fate uno sforzo di memoria. Vi ricordate in quali termini era formulata la denuncia? Oh sì, l'ho riletta tre volte e mi è rimasta in mente parola per parola. Ripetetemela. Dantès si concentrò un istante e la ripeté alla lettera. Faria si strinse nelle spalle. È chiaro come la luce del giorno, disse, e bisogna aver avuto un cuore ben ingenuo e buono per non indovinare subito la cosa. Credete, gridò Dantès. Oh, sarebbe davvero un'infamia! Com'era la grafia abituale di Danglars? Un bel corsivo. E com'era la grafia della lettera anonima? Una grafia rovesciata. Faria sorrise. Prese la penna. O meglio, ciò che chiamava così. la bagnò nell'inchiostro e scrisse con la mano sinistra sopra una tela preparata allo scopo le prime due o tre righe della denuncia. Dantès si indietreggiò e guardò Faria, quasi con terrore. «Oh, oh, è sorprendente!» gridò. «Come questa scrittura assomiglia a quella!» «Perché la denuncia era stata scritta con la mano sinistra!» «Io ho notato che tutti i caratteri scritti con la mano destra sono diversi e che tutti quelli scritti con la mano sinistra si assomigliano». «Qualcuno aveva interesse che voi non sposaste Mercedes?» «Sì, un giovane che l'amava». «Il suo nome?» «Fernand». «È un nome spagnolo?» «Era catalano». «Credete che sia stato capace di scrivere la lettera?» «No, lui mi avrebbe dato una coltellata, ecco tutto. D'altronde ignorava tutti i particolari riportati nella denuncia». «E non li avevate raccontati a nessuno?» «A nessuno, nemmeno alla vostra amante?» «Nemmeno alla mia fidanzata». «È stato Danglars?» «Sì, ora ne sono certo, aspettate». «Danglars conosceva Fernand?» «No, sì, mi ricordo...» «Cosa?» «Sì, due giorni prima delle mie nozze li ho visti seduti insieme a un tavolo sotto il pergolato di Papà Panfil. Danglars era... amichevole e scherzoso. Fernand no, era pallido e sconvolto». «Erano soli?» «No, era con loro un terzo compagno, che conoscevo bene, il quale senza dubbio li aveva fatti conoscere, un sarto di nome Caderousse. Sì, ma questi era già ubriaco. Aspettate, ma come mai me l'ero dimenticato? Vicino al tavolo dove stavano bevendo... c'erano un calamaio della carta, delle penne». E Dantès portò la mano alla fronte. «Oh, gli infami! Gli infami!» «Volete sapere qualcos'altro?» chiese sorridendo Faria. «Sì, sì, dato che voi approfondite tutto e vedete chiaro in ogni cosa. Voglio sapere perché sono stato interrogato una sola volta. Perché non mi hanno concesso dei giudici? E perché sono stato condannato senza una sentenza?» «Chi vi ha interrogato? Il procuratore del re? Il sostituto? O il giudice istruttore?» «È stato il sostituto». «Giovane o vecchio?» «Giovane, tra i 27 e i 28 anni». «Bene, non ancora corrotto, ma ambizioso. Quali furono i modi che usò con voi?» «Amichevoli più che severi». «Gli avete raccontato tutto?» «Tutto». «E i suoi modi non sono mai cambiati nel corso dell'interrogatorio?» «Sono cambiati un momento quando ha letto la lettera che mi comprometteva. Mi è sembrato come oppresso dalla mia disgrazia». E siete proprio sicuro che fosse la vostra disgrazia ad affliggerlo? Perlomeno mi ha dato grande prova di simpatia. E come? Ha bruciato il solo documento che poteva compromettermi. Quale? La denuncia? No, la lettera. Ne siete sicuro? Lo ha fatto sotto i miei occhi dicendomi: vedete, esiste solo questa prova contro di voi e io la distruggo. È un comportamento troppo sublime per essere naturale. Credete? Ne sono sicuro. A chi era indirizzata quella lettera? Al signor Noirtier, rue Coqueron, numero 13, Parigi. Noirtier? Noirtier? Ripeté Faria. Ho conosciuto un Noirtier alla corte della vecchia duchessa di Toscana, un Noirtier che durante la rivoluzione era stato girondino. Come si chiamava il sostituto? Villefort. Faria scoppiò a ridere. Dantès lo guardò con stupore. Che avete? Domandò. Vedete questo raggio di sole? Chiese l'abate. Sì. Ebbene, ora per me tutto è più chiaro di questo raggio trasparente e luminoso. Questo onesto fornitore di boia vi ha fatto giurare di non pronunciare mai il nome di Noirtier? Sì. Noirtier. Povero cieco che siete. Sapete chi era questo Noirtier? Questo Noirtier era suo padre. Un fulmine caduto ai piedi di Dantès, che gli avesse spalancato un abisso al fondo del quale si fosse aperto l'inferno, non gli avrebbe prodotto un effetto così immediato, così elettrico, così opprimente quanto queste inattese parole. Si alzò, afferrandosi la testa fra le mani come per impedirle di scoppiare. «Suo padre! Suo padre!» gridò. «Sì, suo padre, che si chiama Noirtier di Villefort», continuò l'abate. Allora un lampo folgorante attraversò la mente del prigioniero. Tutto ciò che gli era rimasto oscuro venne all'istante illuminato da una chiarezza splendente. Gettò un grido. Traballò un istante come un ubriaco. Poi, lanciandosi verso l'apertura che dalla cella di Faria conduceva alla sua, disse: «Ho bisogno di rimanere solo per pensare a tutto ciò». E, arrivato nella sua cella, cadde sul letto, dove la sera il carceriere lo ritrovò seduto, con gli occhi fissi, i lineamenti contratti, immobile e muto come una statua. Nelle ore di meditazione, che erano trascorse come secondi, aveva preso una terribile risoluzione e fatto un formidabile giuramento. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it